E siamo rientrati in diretta a 451 frammenti sonori e sempre in onda sulle frequenze di Radio Città del Capo. Oggi giornata, diciamo, prenatalizia, 18 dicembre, ormai 19 dicembre, e lo diciamo agli ascoltatori che si fossero messi in ascolto solo in questo momento sulle frequenze di Radio Città del Capo, che 451 frammenti sonori sta svolgendo la sua seconda parte della trasmissione, prima parte andata in onda alle 23:35, poi chiaramente interrotta dalla solita entrata del GR di Radio Popolare Network, adesso è rientrata nella seconda parte, ricordando appunto che 451 stasera chiuderà l'anno in termini di trasmissioni radiofoniche, riprenderà dopo il 6 gennaio 2012, chissà cosa ci riserverà l'anno nuovo, speriamo qualcosa di meglio di un 2011 abbastanza pesante sotto vari punti di vista, generale, poi individuale non lo posso dire perché non conosco tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, che cosa hanno vissuto, che cosa hanno attraversato quest'anno. 451, dunque, frammenti sonori, ricordiamo per coloro che si fossero messi in ascolto solo ora, casualmente o volutamente, della trasmissione, stasera il tema della puntata è dimensioni oniriche, che si estrinseca tra sogni estatici e incubi primordiali. Nella prima parte abbiamo aperto con un vero e proprio sogno meraviglioso, estatico in tutta la sua interezza, di Harold Budd, da Pavilion of Dreams, e siamo passati poi nelle dimensioni primordiali di Eardrum e in parte di Orang, per chiudere invece una dimensione tra sogno e primordialità, potremmo dire un incrocio tra sogno estatico e incubo primordiale, di David Simmons, da Prismatic Earring del 2004. Abbiamo riaperto, è quello che avete ascoltato poc'anzi, è un disco assolutamente obliquo, indefinibile, come spesso i lavori geniali, elettronici e piuttosto strani, è una parola un po' troppo limitata, direi quasi inquietanti per la loro diversità concettuale, di David Berman, autore e compositore importantissimo sulla scena musicale compositiva elettronica e non solo, dal 1965, un autore geniale che ha realizzato dei dischi bellissimi soprattutto negli anni 70, ma in parte anche negli anni 80-90. In particolar modo il brano che abbiamo ascoltato era tratto dal disco Unforeseen Events del 1992, un'elettronica appunto obliqua, quasi erronea, quasi volutamente deviata e dissonante. Il brano ricorda molto quello che abbiamo appunto mandato in onda in apertura della seconda parte, un sogno senza né capo né coda, una dimensione quasi di totale abbandono, di rilascio, di incrocio tra razionalità e irrazionalità. L'elettronica e la dimensione quasi matematica impone un elemento più che razionale, ma viene condotta, sviluppata con delle storture, con dei fade e degli slide in queste sfasature armoniche, melodiche, che creano appunto uno stordimento, quasi una dimensione di circolarità interrotta, quasi una sorta di un vinile, il solco del vinile che si inceppa tra la puntina appunto nel solco e ricrea un loop che alle volte però per spostamenti micro crea delle sonorità, dei suoni, delle melodie e anche delle frequenze che modificano la propria tonalità. David Berman è in questo disco assolutamente assurdo e assurdista, riesce perfettamente a entrare in una dimensione onirica, almeno per quanto noi vogliamo rappresentare stasera nel percorso musicale. E da David Berman ci andiamo a spostare, a trovare un altro autore molto longevo. David Berman inizia la sua attività musicale nel 1965 e questo autore direi rimane sulla scia, perché inizia negli anni 70, qualche anno dopo, autore americano importantissimo, grande improvvisatore, grande sperimentatore chitarristico, parliamo di Loren Connors, che poi in 40 anni di carriera ha portato avanti progetti con altri nomi e ha partecipato a varie formazioni e a vari appunto complessi musicali e progettuali molto differenti fra loro, ma comunati sempre da una dimensione molto sperimentale e anche molto evocativa dal punto di vista sonoro. Anche quest'ultimo disco, uscito proprio da pochissimo, Red Mars 2011 per la Family Vineyard, dimostra questa sua tendenza, questa sua diciamo direzione musicale, pur avendo un bel po' di anni sulle spalle il grande Lauren Connors, ma l'età conta poco quanto si tratta di autori, compositori, di artisti a tutto tondo che sperimentano fin da quando sono giovani e continuano a mettersi in discussione dal punto di vista musicale. Dimensioni anche sonore con la sua chitarra molto diverse nei vari brani di questo disco, e in particolare ci ha colpito il brano intitolato Showers of Meteors, che dà l'idea appunto di una dimensione spaziale tra sogno e incubo. Gli effetti utilizzati sono sempre molto ben calibrati, molto sapienti sulla chitarra che utilizza Connors, creando una sonorità assolutamente avvolgente che entra perfettamente dentro la definizione di onirico. Andiamoci a sentire Lauren Connors da Red Mars, uscita assolutamente recentissima, esattamente ottobre 2011. Buon ascolto. Siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto chiaramente un mix. Chissà, qualcuno se ne sarà accorto, non se ne sarà accorto, la dimensione sonora chiaramente in questo secondo brano nel corso dello svolgimento mutava, però bisogna dire che all'inizio, dunque nella fine del primo brano che abbiamo mandato, cioè quello di Lauren Connors da Red Mars, uscito appunto a ottobre 2011, e questo secondo, che è il disco uscito l'anno prima, nel 2010, di Ethenor, c'era appunto una vicinanza a livello sonoro, anche se poi il brano chiaramente si sviluppava in maniera differente. Bene, Ethenor, che è una formazione, un progetto nato da pochissimo tempo, da 4 anni circa, è una costruzione praticamente di due, anzi tre in realtà, musicisti, ma soprattutto due abbastanza famosi, cioè il grande Stefano Malli, chitarrista e leader della formazione molto importante della scena metal drone Sanò, con l'altro personaggio importante di un'altra band, di un altro progetto legato sempre a metal drone, vicine comunque alla dimensione metal drone di Sanò, cioè Shora, il tastierista e diciamo il personaggio più legato all'aspetto elettronico, Vincent De Roguin, insieme a un altro grande comunque come Daniel O'Sullivan. Dunque questo trio ha costruito questo progetto che si muove, come avrete sentito, in una dimensione sonora molto interessante, che pesca molto nel jazz psichedelico e onirico e ipnotico degli anni 60-70, lo sentite anche in sottofondo, l'utilizzo di piano Rhodes, di una batteria molto effettata sui piatti, sui cimbali, su dimensioni percussive molto effettistiche, e chitarre e altre strumentazioni elettroniche che ricordano le antiche strumentazioni elettroniche degli anni 60-70, del jazz elettrico, del jazz psichedelico, del jazz rock più avanzato, che 451 spesso ha mandato in onda in varie puntate, in varie trasmissioni, inserendo però anche quella dimensione sonora molto più vicina ovviamente agli anni zero, con un'elettronica più avanzata e con un'idea di base più aperta a dimensioni anche differenti e meno stereotipate, e ovviamente non così strettamente legate a una dimensione quasi manieristica di ripresa di determinate sonorità e di composizioni degli anni 60-70. Il tutto crea appunto un suono molto originale, molto interessante, con delle dimensioni anche molto rumoriste, tipiche invece degli anni zero, pescando in pieno dalla loro chiaramente provenienza metallica e dronesca, che ha fatto il grande successo, almeno chiaramente in ambiti molto limitati e fra appassionati ed esperti di tutto il fenomeno, soprattutto centrato sul progetto Sanò, ma anche in altri progetti paralleli che hanno portato avanti il discorso metal drone, che ha aperto la scena tra virgolette del metal a dimensioni completamente inimmaginabili fino a qualche anno fa. Ethenor, dunque, progetto che ha fatto uscire questo ultimo disco, uscito l'anno scorso, intitolato N-Form 4 Bla, un giochino un po' nella pronuncia per la VHF. E dunque, rimanendo in questa dimensione onirica molto ben espressa in questo disco degli Ethenor, andiamo a scoprire il prossimo progetto. Anche questo è una sorta di ensemble, di progetto che unisce varie dimensioni sonore, personali di musicisti e di band piuttosto importanti della scena, soprattutto degli anni 90 e dell'inizio degli anni zero. Parliamo degli Starlicker, che è un trio composto da Rob Mazurek, grande personaggio musicista della Chicago Underground Duo Trio Quartet, e anche Exploding Stan Orchestra, il vibrafonista Jason Adasiewicz, sempre dell'Exploding Star Orchestra, e il batterista John Herndon dei Tortoise. Dunque, insomma, un bel pezzo di storia, da una parte la nuova scena jazzistica elettronica rappresentata dell'Exploding Stan Orchestra e del Chicago Underground Duo, e la storia rappresentata dai Tortoise, storia importante del post rock. La fusione crea appunto questo progetto che si muove ovviamente nella dimensione jazzistica e con chiare coloriture e intrecci col post rock, ma anche attenta a certe dimensioni anche elettroniche, alcuni inserimenti seppur molto minimali, a creare comunque un suono molto onirico, soprattutto in questo disco che andiamo a presentare, uscito a luglio del 2011, dunque anche questo una novità del 2011, Double Demon, dove appunto vibrafoni e strumentazione che ricordano un po' come possiamo ricordare lo xilofono, l'arpa, strumenti comunque che danno una dimensione molto sognante, molto onirica, accompagnato ovviamente dagli altri strumenti tipici di una formazione jazz, seppur anomala e connessa comunque elementi elettronici e sperimentali. Ci andiamo a sentire dunque anche questa dimensione onirica, molto più vicina all'idea del sogno estatico, ma con alcuni momenti anche scuri che non possono ricordare in maniera così netta un incubo, ma possono comunque dare una coloritura un po' più scura a una dimensione più chiara rappresentata dal sogno. Buon ascolto dunque a questo punto con Star Lickel da Double Demon. E siamo rientrati in diretta dopo questo flusso molto marcatamente jazzista, con una prima parte molto sognante, la seconda sicuramente frenetica. Potremmo pensare a un sogno incubo molto molto movimentato, ci sono anche quelli, per cui possiamo farlo rientrare dentro un percorso onirico un po' particolare, facendolo entrare, diciamo, un po' dalla finestra. Siamo anche autocritici da questo punto di vista. Dimensioni oniriche dunque rappresentate anche da Starlicker, dal disco Double Demon 2011. E ora ci spostiamo completamente come dimensione sonora, entrando nelle composizioni più legate alla musica contemporanea, alla dimensione più improvvisativa, anche free in alcuni momenti, e ritroviamo una grande musicista e compositrice che ha attraversato vari progetti tra gli anni 80 e gli anni 0, ormai si parla quasi di 30 più anni di carriera musicale per questa musicista che ha come strumento cardine l'arpa. L'avevo detto che uno degli aspetti, uno degli strumenti più legati all'idea della dimensione onirica, appunto l'arpa, e parliamo di Zina Parkins, musicista che ha lavorato con etichette importantissime nella sua carriera musicale. Ha sempre ricercato, partendo dalla sua città natale, Detroit, città dunque ricca di contraddizioni e difficoltà legate all'industria, a tutta la scena operaia che è rimasta falcidiata dalla chiusura delle gran parte delle grandi fabbriche di Detroit, ma si è spostata fin da giovane sulla scena newyorkese per attraversare appunto varie progettualità e attraversare anche molte etichette importanti, dalla Avant alla Table of Elements, alla Zadig, alla GMZ Records, alla Mego, per arrivare di nuovo alla Table of Elements nel disco che l'ultimo lavoro uscito alla fine del 2010, Between the Wilds, dove appunto la sua arpa e tanti anche altri strumenti utilizzati costruisce appunto un disco molto molto sognante, molto vicino all'idea appunto della dimensione onirica espressa stasera come tema. Molto bella anche la copertina, dove si vede un gatto che vola su una scopa sopra la città, dunque è molto divertente anche l'idea elaborata da Zina Parkins, quasi un gatto sognante, dormiente, che è appoggiato su una scopa che viaggia sopra i grattacieli, probabilmente, chissà, di New York. Anche questa potrebbe essere l'idea, voi lo sapete, chissà. I gatti sognano tantissimo, forse anche più di noi, e dunque stiamo perfettamente dentro anche la dimensione, diciamo, gattifera. Dimensioni oniriche dunque espresse anche nel disco Between the Wilds, Zina Parkins. Andiamoci ad ascoltare. Buon ascolto. Thank you. Thank you. siamo rientrati in diretta, sicuramente esplodente questo brano di Zina Parkins, iniziata diciamo con una dimensione molto, molto dolce, molto sognante, molto appunto onirica, per poi entrare in una dimensione rumorista assolutamente incredibile. Oltretutto il suono che sentite non è assolutamente una chitarra, ma è un'arpa che viene elettrificata e si crea un suono assolutamente devastante, rumorista al massimo, creando forse una dimensione tra sogno estatico e incubo primordiale, con questo suono quasi da big band o da appunto dimensione della nascita del mondo, del pianeta, della natura, dirompente, caotico, rumorista, proprio nel massimo della sua potenza. E Zina Parkins comunque in questo disco alterna queste dimensioni quasi mellifule, dolci, quasi impercettibili, a dimensioni di rumorismo sfrenato, di frequenze assolutamente stridenti e disorientanti. Un disco sorprendente rispetto anche a certe sperimentazioni della Zina Parkins, che questa dimensione così fortemente rumorista forse raramente l'aveva raggiunta. E da Zina Parkins ci riaddentriamo dentro la dinamica più squisitamente jazzistica, dunque la dimensione onirica che spesso veniva rappresentata soprattutto nelle sperimentazioni degli anni 60-70, quelle più connesse alle dimensioni psicadeliche, del jazz psicadelico, del jazz elettrico, più aperto anche a dimensioni cosmiche e spaziali, e anche altre dimensioni, quelle più squisitamente legate all'improvvisazione radicale, al free, progetti che hanno comunque attraversato sensazioni e trasmettevano dimensioni anche sognanti, oniriche, seppur ovviamente intrecciate dimensioni anche molto free, molto forti e dinamiche nel loro svolgimento musicale. E proprio con una formazione di questo tipo di universo andremo a chiudere la puntata di stasera dedicata alle dimensioni oniriche. Si tratta di un progetto che è nato nel 2006 anche per l'aiuto della Zadig, che ha fatto praticamente incontrare parte del storico AACM, progetto assolutamente fondante del periodo anni 60-70 americano, Ed Wilkerson, Nicole Mitchell, Harrison Bankhead e Avriel Ra, quattro elementi che hanno composto questo progetto Frequency, che si muove fondamentalmente sul modern creative, sul jazz d'avanguardia, sul jazz improvvisativo, ma ovviamente più calato negli anni zero. Devo dire, non è che si sentano particolari elementi di novità in questo tipo di lavoro. Si sente il tributo e riferimenti molto forti a quel tipo di stagione musicale, però era interessante ritrovare degli elementi che si sono messi in gioco dentro un nuovo progetto, pur essendo membri di un progetto gigantesco, importantissimo, che ha attraversato appunto gli anni 60 e 70, soprattutto neri americani. Andiamoci a sentire dunque questo progetto Frequency. È uscito il loro disco, oltretutto unico disco del loro progetto, nel 2006 per la Trill Jockey. Chiuderà questo flusso musicale il percorso di stasera. Ovviamente io vi lascio sulle note di questo brano tratto dall'album Frequency, e vi ricordo ovviamente che 451 Frammenti Sonori dovrebbe, guardando il calendario, ripartire l'8 di gennaio, ma non è sicuro. Probabilmente inseriremo qualche notizia per coloro che ci amano così tanto sul nostro blog, che lo ricordo ancora, 451frammentisonori.noblogs.org. Sicuramente inseriremo qualche notizia rispetto al nostro reingresso sulle frequenze di Radio Città del Capo. Vi lascio dunque con Frequency, buonanotte e ovviamente arrivederci a questo punto, o a risentirci sarebbe più corretto, nel 2012. Mi sembra che questo numero mi ricorda un film di fantascienza, però forse mi sbaglio, boh, vedremo se vivremo un film di fantascienza oppure c'è la famosa maledizione, ma un po' di confusione, ma forse questi sono i tempi un po' della confusione. Forse è meglio buttarci nella dimensione onirica. Sogni estatici, incubi primordiali, in parte c'è, ci sono tutti e due gli elementi in questo percorso musicale che adesso andrete ad ascoltare da Frequency. Ovviamente buonanotte da Elisio Scarpa e vi lascio sulle onde di 451 Frammenti Sonori.